Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La bomba non era percepita come una cosa particolarmente grave e degna di preoccupazione. Forse in effetti non lo era nemmeno. Così decidemmo di non spaventarci nemmeno noi. Mi chiamo Paolo Dinamo, vengo da Cuneo, ho 24 anni e faccio un po' di tutto. La nostra auto si ferma all'ingresso del campo. C'è un trambusto di soldati e poliziotti giordani. Clacson che suonano, moto scoppiettanti, bambini che spingono carriole e vendono sigarette. Di guardia all'ingresso c'è un veicolo corazzato, un soldato bussa al nostro finestrino, si sporge a controllare i documenti e dopo una lunga occhiata sospettosa ci fa segno di passare. Nel luglio del 2012 il campo di Za'atari ospitava centinaia di siriani. Alla fine di agosto del 2012 erano 15.000. Oggi sono 120.000, concentrati sul lato ovest del campo. Un viale costeggiato da botteghe fatiscenti, ambulatori improvvisati e scuole. Gli odori sono quelli di una città. Fogna, sudore, fumo di sigarette, acqua di colonia, carne che arrostisce sugli spiedi. Siriani e cooperanti hanno soprannominato questo viale gli Champs-Élysées. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:09 di un bel mercoledì 25 di settembre. Questo pezzo che vi ho letto è tratto da un reportage pubblicato da Internazionale questa settimana, scritto da David Remnick, che è il direttore del New Yorker, che è stato qualche tempo fa in Giordania, in questo campo profughi che è stato creato un anno fa e che in un anno è diventato praticamente una città. Apriamo con questo perché oggi non si parla di profughi, non si parla di Remnick, si parla però di grandi eventi che fanno notizia e di quelle situazioni in cui che a volte capitano, in cui si finisce per caso all'interno delle notizie. Nella seconda parte, a proposito appunto di grandi inviati, avremo ospite in diretta Mimmo Candito, che è inviato della stampa, reporter di guerra, è inviato della stampa, ha passato un bel po' di tempo in Libia solo ultimamente, ma è stato praticamente dappertutto, che ci racconterà che cosa significa essere dentro a quella notizia lì e raccontarla. Tutto però perché partiamo da una storia, che è la storia di Paolo, che ha 24 anni e che si è trovato in quella situazione per cui è in vacanza, è tranquillo, è coi genitori. Succede una cosa esattamente nel momento in cui si trova in quel luogo e il giorno dopo si trova nei giornali e sulle prime pagine di tutti i giornali. Non lui magari, però sente di essere stato lì, dentro quella notizia. 349-238-6666, oppure voi siete qui, radio24.it è il profilo Facebook del programma, mentre voi siete qui, R24 è il profilo Twitter. Francesco ad esempio già scrive: Israele 2011, un attentato ad un pullman su un tratto di strada che avevo percorso pochi giorni prima nel sud del paese, vicino ad Eilat. Claudia, novembre 2008, rientravo dal Brasile con il volo Air France Rio Parigi. Pochi mesi dopo, lo stesso volo precipitava nell'oceano. Paolo, un mio amico impegnato mi passa il suo abbonamento per andare a vedere Bologna-Roma, 15 anni fa. Quindi si parla veramente di luoghi sparsi in giro per il mondo, anche semplicemente lo stadio di Bologna. Cos'è? Dall'Ara? Stadio Dall'Ara di Bologna. La guerra sugli spalti, per me che solitamente non vado nemmeno allo stadio e che se c'è un accenno di rissa mi allontano, era come essere a Beirut, pulmini e motorini bruciati. Ricordo il giorno dopo una foto sul giornale, in un angolo ci sono io che esco dallo stadio e cerco di andare a casa mia, poco lontano, col volto di chi si prospetta il disastro imminente. 349-238-6666. Essere stati dentro una notizia o essere stati nel luogo in cui una notizia è poi esplosa, è diventata una notizia, è una sensazione particolare. Poi qualcuno ci è finito proprio personalmente, altri invece semplicemente in qualche modo hanno avuto a che fare con quel luogo e con quella notizia. Stefania ad esempio: avevo 8 anni, ogni estate salutavamo i nostri vicini di casa che con la 500 azzurra stracarica sul tettuccio partivano per le vacanze. Andavano sempre in montagna, sulle Dolomiti. Dopo qualche giorno, sul resto del Carlino di Bologna, in prima pagina, trovammo la foto in grande formato del rottame di una 500 giù per una scarpata. Erano loro. Di loro rimase solo la nonna che per un po' di tempo tenemmo dietro noi. Cosa significa? Per un po' di tempo tenemmo dietro noi vuol dire che se ne presero cura loro, immagino. Però Stefania, mi sa che è un modo di dire bolognese questo. La teniamo dietro? Va bene, dai, lo tengo dietro io. lascia il cane, dai, lo tengo dietro io. 349-238-6666. Siete stati dentro una notizia? Raccontatecela. Questa è la storia di Paolo. Era agosto, caldo. L'anno il 2001. Non avevo ancora compiuto 13 anni. Ero in vacanze con i miei, avevamo una casa, o meglio, quella che per noi era una casa. In realtà era un Ford Transit bianco, che mio padre aveva adattato a camper. Lì sopra c'era tutto. Come da qualche anno, fino a quel punto, trascorrevamo le vacanze in Spagna. Solito campeggio, solito fantastico mare, solita Cambrils. Cambrils è una città di mare e da bambino andavo sempre lì in vacanza con i miei genitori perché ci siamo trovati bene dalla prima volta ed era diventata un po' una tradizione di famiglia. Quella sera decidiamo di andare in una località vicina, Salou, per una passeggiata, un gelato e accontentare la mia esigenza di bambino di passare qualche mezz'ora nel Luna Park locale. Arrivati sul posto ci trovammo immersi in una festa popolare, una di quelle in cui si vedono i castell, le tradizionali torri umane catalane. Vederle dal vivo fu un'emozione molto forte, ma non è questo lo scopo di questa storia. La parte interessante viene dopo. Dopo aver trascorso la serata, tornammo alla nostra base e il mattino seguente, durante la colazione, la radio era accesa e sentimmo parlare di un coche bomba. La notizia in sé era abbastanza frequente per la Spagna di quel periodo, frastornata da frequenti attacchi dell'ETA, ma la cosa che ci colpì fu il fatto che l'autobomba era stata piazzata di fronte a un hotel di quella Salou in cui noi avevamo trascorso la serata. In realtà la sensazione di pericolo non ci toccò. L'unica reazione che ricordo nella mia testa di ragazzino era quella legata all'impressione di essere stati, per un istante, in un luogo potenzialmente mortale. La bomba non causa morti, fortunatamente. Chi la piazzò avvertì la polizia prima dell'esplosione, in modo da poter dare prova del proprio potenziale, ma non coinvolgere nessuno. Quel mattino andammo a comprare il giornale in cui era riportata la notizia, ma a dirla tutta, sembravamo gli unici ad esserci resi conto di cosa fosse accaduto. La gente del posto non parlava del fatto, forse perché era in qualche modo già abituata a cose di questo tipo. I nostri vicini di campeggio erano soprattutto tedeschi, ignari di qualunque cosa succedesse nelle vicinanze, a meno che non si trattasse di carne alla brace e di birra. Il fatto non ha cambiato granché le nostre vacanze, i nostri programmi, perché ci siamo adeguati ai turisti e agli abitanti del luogo che hanno continuato la loro routine quotidiana. A quei tempi avevo una bicicletta verde. Quel pomeriggio, come quasi ogni giorno in vacanza, percorrevo qualche centinaio di metri tra le diverse stradine del campeggio, un po' per passare il tempo e un po' per vedere le facce della gente. La bomba non era percepita come una cosa particolarmente grave e degna di preoccupazione, forse in effetti non lo era nemmeno. Così decidemmo di non spaventarci nemmeno noi. Arrivati a casa, dopo 2 settimane, raccontammo l'accaduto ai nostri familiari, ai nostri conoscenti. Avevamo addirittura il giornale come prova. Nessuno però diede un gran peso a quella bomba e al nostro racconto. Forse perché allora di attentati non si parlava ancora un granché. Forse perché in fondo i problemi del mondo erano altri. Forse perché l'era delle evacuazioni delle metropolitane e delle stazioni doveva ancora venire. Forse perché in fondo questa bomba non meritava troppa attenzione. Era agosto, era caldo, ma l'anno io, a differenza di Paolo, non me lo ricordo. Ero troppo piccolo per ricordare la mia età e non c'è nulla che testimoni quei giorni. Non eravamo in Spagna e non ci fu nessuna bomba, eppure quell'estate provai la stessa sensazione di Paolo, quella di essere stato dentro la notizia, nel luogo e nel momento preciso che giornali e telegiornali i giorni successivi raccontarono a lungo. Porto di Piombino. Aspettiamo il traghetto che ci porta all'isola d'Elba come tutte le estati. Mio padre, come tutte le estati, è partito con un anticipo esorbitante e ora è in biglietteria a lottare per poter prendere il primo traghetto possibile. Io, mia sorella e mia mamma siamo invece parcheggiati sulla vecchia BMW serie 3 che è in fila sul molo. non ha l'aria condizionata e il sole la colpisce come un'onda continua di calore. Noi però imperterriti rimaniamo in auto. Alla nostra destra la strada ferrata che porta direttamente sul molo, l'unico treno che arriva qui al porto. Alla nostra sinistra invece auto di tedeschi in coda, come noi, con tanto di roulotte e gommoni. Ok, ho detto che l'anno non me lo ricordo, ma deve essere per forza qualcosa intorno alla metà degli anni Ottanta. La crisi non esiste, è agosto e fa molto caldo. All'improvviso si sente un vociare provenire dalla strada, quella che dà l'accesso al porto. Voci indistinte che urlano qualcosa senza un senso. E poi, eccolo che arriva. Il treno. Un comune treno locale, di quelli che si fermano in stazioni pressoché abbandonate, che arriva lanciato come se fosse su una pianura americana e fischia come un forsennato. Ci passa accanto, tira dritto verso un piccolo parapetto di cemento che lo divide dalla fine del molo e più giù dal mare. E non si ferma. La motrice si schianta sul parapetto, in parte lo sfonda, in parte ci si arrampica sopra e prosegue la corsa finendo in mare, portandosi dietro almeno un paio di carrozze. Io e mia sorella rimaniamo impietriti. Mia mamma, anche prima di ordinarci di rimanere in auto, ci dice di non muoverci e soprattutto di non guardare. La gente si accalca intorno al treno, ormai è fermo, ed è reso ridicolo da quella gobba causata dal parapetto che lo solleva in modo innaturale. Arriva mio padre che dice di averlo sentito fischiare, arriva un'ambulanza e finalmente scendono tre persone dalle carrozze posteriori, le uniche che erano sul treno. Il macchinista, il capotreno e un controllore. Sono bianchi come dei cenci, li fanno sedere all'ombra e gli danno qualcosa da bere. Ricordo mia sorella dire «Mazza che botta!» E poi per il resto del viaggio in traghetto, fino a Residence, dove inizieremo le vacanze, parliamo di quanto abbiamo rischiato lì di fianco e della fortuna che il treno fosse vuoto e cose del genere. La sera i telegiornali ne parlano, il giorno dopo i quotidiani nazionali hanno la foto del treno in prima pagina e io penso addirittura di intravedere la nostra auto, anche se non è così. Il Tirreno, il quotidiano toscano, per tutta la settimana non fa altro che raccontare del guasto ai freni e scongiura l'errore umano. Non ho nessuna copia di quei giornali e con grande disappunto ho scoperto che sul web non c'è traccia di quel treno finito in mare in un giorno d'agosto di metà degli anni Ottanta. Però io quella sensazione, quella di sentirti fortunato e miracolato per essere stato nel luogo di una possibile tragedia, ancora un po' la provo adesso. In the grid aware their position, unconcerned with intuition, there could never be no sympathy. From that wilderness, so let it be arrested. Sono diverse le situazioni in cui le persone che scrivono sono trovate proprio dentro, accanto o hanno anticipato la notizia. Quello che però c'è dentro totalmente è Emanuele da Brescia che scrive: 6 agosto 2013, Città del Vaticano, il Papa ci riceve informalmente fuori da casa sua alla fine del pellegrinaggio a Roma. Notizie sulle TV e giornali locali, anche sul TG1, fantastico. Emanuele da Brescia. E poi invece cose che sono successe prima o dopo. Ad esempio Fabio da Bergamo: riparo caldaie e un giorno sono stato a casa di una signora che qualche giorno dopo ho visto al TG, uccisa a coltellate da un ex dipendente del marito. Diciamo che la cronaca nera ce l'ha ovviamente alla meglio. Sono passata in via Lambertesca a Firenze la notte del 29 maggio 93, 5 minuti prima che esplodesse la bomba che uccise una famiglia e uno studente. Spesso ci ripenso e mi vengono i brividi. E poi 9 settembre 2011 visito le Twin Tower. Questo è un messaggio che sono 5 parole, ma è chiarissimo. 349-238-6666. Non è stato così tanto, è stata un'autobomba che in realtà non ha fortunatamente fatto male a nessuno, però Paolo lì c'era. Pronto Paolo? Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene, tutto bene, anche tu? Io alla grande. Dove ti trovi? Mi trovo di fronte allo studio tecnico in cui lavoro e sono uscito per fare parlare con te. Scusa, perché infatti tu dicevi faccio un sacco di cose, hai detto nella presentazione. Eh sì, faccio un po' di tutto, nel senso che io ho studiato lettere, lavoro in uno studio tecnico da un ingegnere. Che è perfetto, no? Nel senso che quando fai lettere ti dicono, guarda, tu fai lettere, poi sicuramente uno studio tecnico con un ingegnere lo trovi. Esatto, esatto, perché è la cosa più probabile che si possa trovare. Poi la passione per la scrittura, per la musica, quindi faccio un po' di tutto, ecco, in questo senso. Ma quindi sei assunto bello preciso a libro, paga, oppure hai un contratto a tempo determinato? No, sì, sono assunto, sono tutto come si deve. Diciamo. Però tu cosa vuoi fare da grande? Non lo so, io faccio un po' di tutto, nel senso che appunto ho la parola chiave è un po' il tuo passepartout, io faccio un po' di tutto. Esatto, perché cerco di portare avanti tutte le mie passioni parallelamente, diciamo, a quelle lavorative, quindi che sono la scrittura, la musica, il canto, cioè... Uscirò tra qualche settimana con un disco, quindi ma vogliamo dirlo, dimmi come si intitola il disco. E si chiama, allora, Sean, che sono io, si scrive Sean, e il disco si chiamerà Perdi Tempo EP, è il mio primo disco. Cioè, quindi possiamo ufficialmente dire musica indie italiana. Esatto, cioè, sarà anche scaricabile gratuitamente, quindi è facile. Guarda, questo è un messaggio per Tiziano Bonini. Però Tiziano Bonini, diciamo, gli piace cercare la roba, gli piace trovarla. Quindi bene, magari... abbiamo girato lunedì il video, quindi potrei. Sei carico come una mina, Paolo. Sono carichissimo. Mi fa piacere. Torniamo un attimo là. Mi dici esattamente, geolocalizziamola questa cosa. Siamo in Catalogna. Siamo in Catalogna, esatto. Quindi al sud della Catalogna, era appunto il 2001. E in quel periodo la Spagna era abbastanza ricca, diciamo. Si era colpita da diversi attentati. Colpita, sì, abbastanza frequentemente da questi attentati. Non gli si dava un grande peso perché comunque appunto per la Spagna del luogo era prassi. Poi non sempre, cioè, anzi spesso si faceva in modo che i civili non venissero feriti, quindi... erano più avvertimenti, diciamo, quindi in realtà il pericolo concreto che abbiamo passato non ci fu, non ci fu, esatto. Però l'idea di aprire il giornale il giorno dopo e dire eravamo lì, perché poi appunto non ci siamo resi conto lì per lì, e secondo me, io sono convinto tuttora che tutto il resto del campeggio tuttora non sappia che a 3 chilometri da lì è successo quello, perché questi tedeschi... Ecco, volevo giusto parlare dei tedeschi, perché diciamo che questi tedeschi sono un po' il leitmotiv, no? Che mangiano, così, ci mangiano griglia, certo, bevono birra, insomma, sì, da come li descrivi non mi sembrano molto presenti a loro stessi, poi non è sempre così. Ma comunque al di là del... senza essere appunto necessariamente bevuti, eccetera, però tipicamente nei campeggi i tedeschi non vanno nemmeno in spiaggia, perché non so se approfittami, scusa, perdonami, approfitto per salutare il Goethe Institute, con cui ogni tanto ci scambiamo, insomma, facciamo dei lavori che lotta esattamente per evitare i luoghi comuni tra Italia e Germania. Tra Italia e Germania. Senti, però tipicamente gli italiani sono quelli che fanno casino, e quindi i vicini tedeschi si lamentano di loro. Quindi anche noi abbiamo dei luoghi comuni, diciamo, Paolo, negativi. Noi a voglia. Paolo, dimmi invece il Ford Transit, se esiste ancora oppure è stato rottamato. No, purtroppo non è stato un trauma quello, quando mio padre l'ha venduto è stato un trauma, perché è riuscito a piazzarlo il Ford Transit camperato? Sì, perché in realtà lui lo usava per lavoro, e poi in estate lo riciclava come camper. Cioè, che lavoro faceva tuo babbo? E faceva il falegname, quindi aveva appunto questa doppia valenza il furgone, che veniva utilizzato durante l'anno come lavoro e per l'estate come camper. Era fantastico. Paolo, mandaci il link sul profilo Facebook dove possiamo scaricare il tuo pezzo, che così cerco di piazzarlo a Bonini. Nel giro di... non uscirà ancora adesso, quindi 2 o 3 settimane ve lo mando subito. Siamo qua, Paolo, grazie. Perfetto, mille. Grazie. Ciao, grazie, in bocca al lupo, ciao, per tutto. Grazie altrettanto. Visto, ciao. Che la parola chiave era tutto, no? Nel senso che fa tutto. Io faccio qualsiasi cosa. 349-238-6666. Ero al Tamburello nel 94 a Imola. Questo, per chi conosce la strada della Formula 1 e si ricorda di Ayrton Senna, questo messaggio parla molto chiaro. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Ha una faccia strana, quasi basita, nella foto che ci ha mandato oggi Paolo, perché credo che sia fatta apposta questa foto, per forza è fatta apposta, perché ha un dito in bocca tra le unghie, come a dire questa non la devo fare o questa non la dovevo dire. Ha un muro alle sue spalle con una scritta che credo per la prima volta identifica la località in cui si trova. Scritto a penna o a matita c'è scritto Torino. Non ho nessuna copia di quei giornali e con grande disappunto ho scoperto che sul web non c'è traccia di quel treno finito in mare in un giorno di agosto di metà anni Ottanta. Però io quella sensazione, quella di sentirti fortunato e miracolato per essere stato nel luogo di una possibile tragedia, ancora un po' la provo adesso. Alessandra De Luca e la sua splendida voce, se riesco anche a riaccendere il microfono magari è meglio. Ringrazio Alessandra De Luca che come al solito legge alcuni pezzi della storia che abbiamo raccontato oggi, cosa che fa tutti i giorni e cosa che anche noi facciamo tutti i giorni da ormai 2 anni e continueremo a fare anche quest'anno. Voi siete qui, @radio24.it, per continuare ad inviarci i vostri racconti. Vi ricordo una e mezzo o massimo 2 pagine in cui raccontate qualcosa che abbia a che fare con la vostra vita, che vi è successo realmente nella vostra vita e che racconti qualcosa di voi, anche una cosa piccola, anche solo una piccola parte di voi. Immagino sia difficile, credo impossibile in un racconto, in una pagina, raccontare tutto di una persona, però una piccola parte è più che sufficiente. 349-238-6666, arrivano dei messaggi anche sul profilo Twitter del programma, più di uno che ricordano l'attentato Biagi. Ilaria, 19 marzo 2002, in giro nel centro di Bologna in scooter, tutti i vicoli chiusi, piantonati, sirene, le BR hanno appena ucciso Biagi. Attentato Biagi, una mezz'ora prima chiacchieravo di fianco a casa sua con un amico che lavorava lì. E poi ancora, insomma, ce ne sono diversi. Ringrazio chiunque mi scriva la Catalogna è un'insalata, Matteo, mentre la Catalunya invece è il pezzo di Spagna che sta nel sud e che ha come capitale Barcellona. Però secondo me in italiano si può dire Catalogna, no? Cioè la Catalunya è in catalano e la Catalogna è... Ecco, Catalogna, che sì, sarà anche un'insalata, però si chiama, secondo me quell'insalata lì in Spagna si chiama Catalogna. Vogliamo andare a cercarlo? 349-238-6666. Oggi, come dicevamo un attimo fa con Tiziano, è vero che parliamo di stare dentro la notizia, ma parliamo anche di quella cosa che è successa probabilmente poco prima o poco dopo che siamo passati da lì. O quell'aereo o quel treno che abbiamo preso e poco prima o poco dopo è successo qualcosa. E quindi in qualche modo ci ricorda anche quanto piccola roba siamo e quanto poco possiamo governare le cose che succedono. A proposito di questo, a proposito di governare le cose che accadono e soprattutto raccontare le cose che accadono, c'è una categoria di giornalisti che, se, anche solo per il fatto che piglia uno zaino e va su un luogo di guerra, e Gianpaolo Musumeci, che abbiamo qui in redazione un giorno sì e un giorno no, è tra quelli, sono appunto i reporter di guerra, sono una categoria particolare perché va su un posto, racconta una cosa importante e la cosa che a noi rimane in realtà, quelli come me che poco capiscono, è che sostanzialmente rischiano la pelle, cosa che diciamo non tutti i lavori, non in tutti i lavori succede. Per chiacchierare di questa cosa oggi abbiamo chiamato, diciamo, uno dei maestri tra i reporter di guerra, scrive per La Stampa e non solo, ed è Mimmo Candito. Signor Candito, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per essere qui innanzitutto. Grazie dell'invito. Io vorrei partire dal titolo del suo ultimo libro, che è Reporter di guerra, storia di un giornalismo pericoloso, da Hemingway a internet. Quanto la rete ha cambiato il mestiere del reporter? No, innanzitutto vorrei dire una cosa: non è un giornalismo pericoloso, perché questo è ovvio e scontato. È il giornalismo, quando è giornalismo, è sempre pericoloso, perché mette in discussione le logiche del potere con il quale il giornalismo deve misurarsi nel suo racconto della realtà. No, lì c'è scritto di un giornalismo difficile, che è una cosa molto diversa, perché rende conto della complessità dell'intervento che è richiesto al giornalista, al reporter, per potersi avvicinare ad una conoscenza della realtà che non sia soltanto quella della sua apparenza. Perché, come le dice, si rischia la pelle, sì, certamente, si rischia anche la pelle facendo il giornalismo di guerra, ma, e qui apro una parentesi, io credo che il giornalismo, la pelle, quando è il giornalismo, appunto, la rischi sempre, perché proprio ieri è stato celebrato la memoria di Giancarlo Siani, un giovane cronista napoletano che è stato ammazzato non in guerra ma dalla camorra. E così è accaduto in Sicilia a Peppino Impastato, così certo. È accaduto a Mauro De Mauro, cioè tutti i personaggi, colleghi, giornalisti che non affrontavano le condizioni di guerra eppure dovevano scontrarsi con le logiche del potere, quale che esso sia, potere istituzionale o potere criminale, e facendo il loro lavoro hanno trovato la morte. Quindi metterei un pochino da parte la retorica che accompagna sempre il mestiere del giornalismo di guerra, per dire, per impegnare tutti noi che facciamo questo mestiere ad approfondire, per quanto sia possibile, il nostro rapporto diretto con la realtà, ad esserci dentro per poterla raccontare nella sua dimensione autentica. Certo, in guerra questo è molto difficile, perché come lei diceva si rischia appunto la pelle. Chiaro. E tenga conto che in Siria, dall'inizio dell'anno, purtroppo sono morti parecchi giornalisti, dall'inizio della guerra, e sono 2 anni, sono morti 80 giornalisti. Quando dico giornalisti intendo soltanto, 6 di questi erano occidentali, gli altri sono arabi e musulmani. Quando dico giornalista non dico soltanto coloro che hanno in tasca il tesserino del giornalista e più o meno orgogliosamente se ne fregio, ma dico tutti coloro che aiutano i giornalisti professionisti a compiere questo loro lavoro di ricerca della realtà in una dimensione diversa, quindi cameraman, fotoreporter, informatori, autisti e così via. E tra l'altro leggevo su un pezzo di recente che proprio forse per gli attentati in Siria gran parte di questi rimangono impuniti. Direi il 99,99%, purtroppo non vi è mai stata la possibilità di colpire qualcuno che abbia ucciso un corrispondente di guerra o un reporter che racconti la guerra. L'esempio più clamoroso è quello che è accaduto ovviamente a Politkovskaya, la nota collega giornalista della Russia, certo, che è una dei 22 giornalisti che sono stati ammazzati in Russia, non in Unione Sovietica, in Russia, cioè in un paese formalmente democratico, senza che nulla si sia mai saputo di coloro che hanno ordinato l'uccisione di coloro che l'hanno ammazzata. Signor Candido, mi scusi, facciamo un passo indietro. Come si diventa reporter di guerra? Cioè, come si diventa? Parliamo per lei, insomma. Qual è stato il suo primo viaggio? Come ha deciso di fare questa professione qua, che insomma, che comunque è diversa, no, dal giornalismo di redazione? Sì, certamente. Io credo che non si... la nostra condizione di giornalisti europei è un po' diversa da quelli americani. Gli americani diventano giornalisti di reporters, perché fanno questa scelta e hanno una preparazione specifica, avvicinandosi al mondo militare e venendo in qualche misura integrati all'interno di questo mondo. Per noi europei è un po' diverso, nel senso che, così come è accaduto a me, accade al 90% dei miei colleghi del nostro continente, si diventa giornalisti di guerra perché si raccontano le cose del mondo. Un tempo si raccontavano le cose del mondo come sostanzialmente rivoluzioni, tensioni sociali, storie di paesi e di popoli. Poi i conflitti sono diventati un elemento sempre più chiaro del confronto politico e quindi progressivamente si è scivolati all'interno di una dinamica nella quale l'inviato speciale di relazioni internazionali e di politica internazionale finiva per diventare war reporter, reporter di guerra. Questo ha comportato e comporta tuttora naturalmente una preparazione specifica, nel senso che poi deve capire bene cosa significa raccontare una guerra e quindi avere consapevolezza degli agenti e dei soggetti che si muovono sul territorio, delle forze politiche, delle forze religiose, etniche o tribali che intervengono, del valore delle armi, della consistenza e della qualità delle armi, della loro capacità di incidere sul percorso politico-militare e così via. Quindi è uno scivolare progressivo nel quale, in qualche misura, se lei parlava dei giovani freelance, nei quali molti giovani freelance sono coinvolti, finiscono per essere in modo forse fin troppo fascinoso tentati, spesso rischiando autenticamente la vita molto più di noi giornalisti professionisti consolidati all'interno di strutture editoriali, perché non soltanto per la loro passione, che è poi quella che ci accomuna, cioè la passione non del rischiare la pelle, ma la passione del raccontare una difficile lettura della realtà, ma per la passione debbono misurarsi con strutture organizzate come sono quelle dei giornali professionali, e quindi se vogliono avere una capacità di offrire sul mercato un loro prodotto che possa essere appetibile, debbono andare in genere un po' oltre, un po' al di là. Chiaro. Di quel punto in cui spinge il giornalista professionale. Chiaro, e poi purtroppo la devo salutare. L'ultima domanda proprio a bruciapelo: qual è il prossimo viaggio, signor Candido? Non lo so, perché il mondo è pieno di guerre, ce n'è 33 in questo momento. E allora in base a cosa decide quando partire? Cioè, quando... Non decidiamo noi, decidono le strutture editoriali, perché un giornalista in guerra costa $1,500 soltanto come assicurazione sulla pelle ogni giorno. Quindi sono spese colossali che vanno affrontate con la consapevolezza delle logiche di mercato. Ringrazio molto Mimmo Candido per la chiacchierata. In bocca al lupo. A presto, grazie, arrivederci. Grazie. Io ringrazio anche e soprattutto quelli che hanno fatto la puntata di oggi. È stata una piccola lezione di giornalismo da prendere, copiare e incollare dappertutto. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Fabio Cantadori. Grazie soprattutto a Paolo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.